Sono fiera di annunciare la candidatura di Caio Giulio Cesare Mussolini nelle liste di Fratelli d'Italia per le elezioni europee. Caio è stato un importante dirigente di Finmeccanica, 15 anni ufficiale di Marina, è un professionista, è un militare, è un patriota, è un'altra importante personalità che arricchisce le liste di Fratelli d'Italia, continua il nostro cammino verso la vittoria alle elezioni europee del 26 maggio. Vai sul serio? Lo hai detto, hermano? Non se scherza con Caio. Go Hal and Paul Verri. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Ci vuole fegato a salire su un ring con la scritta Gypsy, Zingaro, cucita sui pantaloncini. Ma bisogna essere dei pazzi fulminati o degli idealisti coraggiosi per farlo nella Germania di Adolf Hitler. E Johann Trollmann era entrambe le cose. Nato ad Hannover nel 1907, in una famiglia sinti, questo ragazzo fu soprannominato Rucheli, albero nella sua lingua, per il suo fisico possente e la chioma piena di ricci. Nel 1929 divenne un pugile professionista e portò sul ring uno stile di combattimento che nessuno aveva mai visto. Movimenti rapidissimi, balletti al centro del quadrato, raffiche di pugni intervallate da giochi di gambe. Insomma, un Muhammad Ali ante litteram. Un modo di affrontare gli avversari che gli costò il biasimo della stampa, che lo additò ripetutamente come lo Zingaro. Da cui nacque l'idea di mettere quella scritta sui calzoncini per dimostrare che andava fiero delle sue origini. Origini che gli costarono dapprima l'esonero dalla squadra olimpica del 28 e poi le attenzioni del nazismo. Dopo l'ascesa di Hitler e la promulgazione delle prime leggi razziali, Trollmann salì sul ring per rivendicare la cintura dei medio massimi che il regime aveva tolto ad Erich Schlin, pugile ebreo. In un incontro a Berlino, Rucheli affrontò l'arianissimo Adolf Witt, prendendolo letteralmente a pugni. I giudici tentarono di rinviare il match, ma l'insurrezione del pubblico consentì a John di prendersi il titolo che gli venne però revocato 8 giorni dopo dalle autorità naziste. Titolo che Trollmann provò a recuperare affrontando Gustav Eder. La federazione, per non farlo vincere, gli impose di combattere senza utilizzare il suo stile, rimanendo al centro del ring e tenendo la guardia bassa. Rucheli rispose presentandosi con i capelli tinti di biondo e il corpo cosparso di farina. Insomma, ridicolizzando l'idea del pugile ariano. E buonasera e bentornati e bentornati. Buonasera. Fuoco alle polveri, insomma, questo è, se volevamo dire questo. Fuoco alle polveri, numero 92. Tuoto alle polveri. Fuoco alle polveri per noi. Esatto. 92 come? 92 come? La sentiamo e via? Sentiamolo, dai. Aspetta, perché non la trovo. Non ti preoccupare. Diciamo che vediamo, è un 92 Trovila. Temporale, nel senso che è lo scorrimento del tempo all'interno di un'azione. I minuti primi. Bravo. Sì, esatto. Vero. Sì, esatto. L'avevamo preparata, in verità, sì, lo sapevo. L'avete già sentita altre volte, probabilmente nella prima decina delle puntate di Fuoco alle Polveri, quindi si parla di quasi di un secolo fa. Questa cosa è incisa negli encefali di tutti gli italiani e non solo. Eccolo intanto il 92 home, sta arrivando. 92 home cosa? Apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Oh! Lei, Filini? Dai, Filini. Calboni. No, Calbornio. Fantocci. Scusi. E chi lo fa? Posso dire una parola io? Ah, la vostra merdaccia. Venga, Fantocci. Si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica. Allora? Per me? La corazzata Kotionkin? È una cagata pazzesca! Bravo! Che c'entra con 92? Arriva, aspetta! Bravo. 92 minuti di applausi! Bravo. Vai su, Vai sul serio. Sempre. Lo hai detto, vai sul serio. Non si scherza, non con, si scherza Fantozzi. Con Fantozzi. E si riparte con la sigla di nuovo. Ora si rilegge. Tu ripartire oggi. Riparti tu. Ripartiamo da qui. Allora, prima avete sentito la storia di Johan Trollman, che era appunto un pugile zingaro di etnia gypsy, nella Germania di Adolf Hitler, quindi negli anni 20 del Novecento. E quindi insomma c'è tutta la sua storia, che è una storia particolare, che non si sa molto e che corrisponde alla giornata di oggi, no? Corrisponde alla giornata di oggi. E da dove la prendiamo? Dalla solita cronica ribelli, almanacco di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria. Cannibali Ra. That's it. Evviva! Sì. E allora, poi fra l'altro questa cosa di zingari è un tema, no, che è tornato attuale, ciclicamente torna attuale, lo vediamo a Roma, Torre Maura e tutte quelle faccende là. Interessantissimi approfondimenti su Radio Onda Rossa, bravo, ne escono veramente quasi tutti i giorni, però devo dire la lettura dei compagni e le compagne di Radio Onda Rossa è sempre molto interessante. Poi avete sentito anche naturalmente la voce della Meloni, che presenta il candidato alle europee. Che si chiama? Caio Giulio Cesare Mussolini. Che ha avuto da ridire, fra l'altro, che si è arrabbiato esattamente con Facebook. Perché sì, dice, ma Facebook, ma ha detto qua, una cosa bellissima. Praticamente lo oscurano, mi hanno oscurato il profilo. Quindi, paragone, dice che Facebook è come i centri sociali. Beh. Capito? Ma che sta a dire? Capito? Ora, qui i centri sociali si potrebbero incazzare come... mi stai paragonando sì, a centri Facebook, su Facebook. Però... ti spacco. Che stai dicendo? Ma vai, come centri social. Questo così. Seguiremo con interesse, non la... Certo, la certo, forza europea. Ma per forza, ma scherzi? Ma poi fra l'altro c'è anche tutta la faccenda fra Jim Carrey, la Mussolini. Bellissimo, l'ho seguito veramente con passione. E quindi sempre le foto ribaltate, no? Appesi di su, appesi in giù e così, vabbè. C'era una fake su internet, una finta risposta di sotto "You are a bastard" e la finta risposta di Jim Carrey era "And pignol". Ha piegato. Ok, bello. Senti, ciancio alle bande. Ciancio alle bande, allora, di cosa stiamo a parlare oggi? Di cosa parliamo oggi? Parliamo di... L'avevamo promesso, l'avevamo annunciato la scorsa puntata. E per una volta manteniamo le promesse. Manteniamo, cioè, qui veramente stiamo diventando affidabili. Boia, nonostante il quarto d'ora accademico di ritardo, però stiamo quasi diventando affidabili. Sì, esattamente, perché qui abbiamo con noi Omlo e Xina, che avete sentito la settimana scorsa, erano ben lontani da noi, si trovavano in Turchia, nel Bakur, esattamente in un vicolo, a quanto ho capito, nascosti dietro un cassonetto, se non mi sbaglio. Però sono tornati, sono qua con noi e ci raccontano che cosa hanno fatto, che cosa hanno visto, delle riflessioni, spunti sui giorni passati. Per in chi non avesse sentito lunedì, dove sono stati? Dove sono stati? Appunto in Turchia, in Bakur, dove si svolgevano, come in tutta la Turchia, bellissimo, le elezioni, si può dire amministrative? Amministrative, poi magari vabbè, no, dopo ne parliamo approfonditamente. Ho anche alcune domande, esatto, da porvi. E poi di cosa parliamo? Principalmente di questo, principalmente realtà, di non questo. È un argomentino, esatto, così da dire. Poi avremo, no, infatti, daremo tanto spazio a questa questione. Poi avremo una rubrica con il miglior film della settimana, consigli sempre da parte della Virgi e anche un pezzo live, sempre collegato alla questione, certo, collegato alla questione curda, e forse anche qualche rubrica animalosa. Oh, miau. Non collegata al Kurdistan. Allora, pezzaccio dalla regia, ce lo mandi? Pezzaccio dalla regia? Questo l'ho promesso l'altra sera al Next Emerson, dove c'è... Non me lo ricordo, che forse a Grande Lago, mi pare. E quando io prometto quando grande sacerdote promette la Grande Lago, solitamente rispettare cosa. E c'era un volantino del 1998, si leggeva The Roser. E dunque? Nemmeno tuo nome, oh, amo quando sono sbronzo. Ti amo di più quando io sono ubriaco. Mi piaci di più. Ti amo quando sono sbronzo. Ti amo di più quando io sono ubriaco. Mi piaci di più. Non so se sei vero o sei fantasia, e non mi dispiace che tu non sia come ti giorno io, non so chi sei. Wow, wow, wow. Non mi ricordo nemmeno tuo nome. Wow, wow, wow. Non so se sei vero o sei fantasia. E non mi dispiace che tu non sia con me. Ma quando il giorno se ne va, quando mi ritrovo al bar con una bottiglia vuota in mano, all'improvviso arrivi tu, francamente a butto giù, io ti amo sempre più. Wow. Ti amo quando sono sbronzo. Ti amo di più quando io sono ubriaco. Mi piaci di più. Ti amo quando sono sbronzo. Ti amo di più quando io sono ubriaco. Mi piaci di più. Eh sì, allora, questo era stato promesso non a Grande Lago, bensì c'è stato un gran moto di protesta da parte di Joao, che dice che il nostro regista è un po' un fattone e non si ricorda le cose. Ah, era Joao! Grande affronto! Era Jay! Grande affronto! Oh, scusa Jay, Joao! Va bene, ma la gioia comunque è schizzata e sprizzata nell'aria. Qualcuno è andato domenica? Domenica in dove? Allo Yam? Boh. Ne parleremo dopo. Ne parleremo nel microfono soprattutto. Sì. Allora eccoci qua, come promesso abbiamo detto siamo qui in diretta, abbiamo i nuovi compagni a cui diamo il benvenuto, ringraziamo già per lunedì scorso, ma di nuovo per essere qui con noi. Sì, è vero. Ciao, ciao Xina, ciao. Ci diamo anche Omlo. Scusa fra l'altro, perché so che vi siete arrabbiati, che a un certo punto abbiamo troncato la connessione, però la radiofonia ha dei tempi ben precisi che noi tendenzialmente sforiamo. Quindi. Diciamo che era il nostro primo contatto con casa da giorni e quindi avevamo una gran voglia di chiacchierare. Poi come giusto aspetta, ti hanno spento, guarda, vedi, questa è c'è ostilità da fuoco alle polveri nei confronti di Xina. C'è censura. Non vi hanno censurato in Turchia, vi censuriamo noi. Esatto. Allora, ricapitoliamo, siamo peggio di Erdogan, cari compagni. Voi eravate in Turchia per quale motivo? Allora, noi ci siamo uniti alla una delegazione di internazionali che fondamentalmente si è recata in Bakur, nelle zone del Bakur, quindi a prevalenza curda, parliamo appunto, okay. Lo ripeto sempre per dare un po' di coordinate geografiche, stiamo parlando della parte sud-est della Turchia. Sud-est, ok. E lì dove appunto il 31 di marzo si sono svolte le elezioni amministrative, è giusto, perché parliamo proprio della candidatura e dell'elezione dei sindaci delle varie municipalità, e noi ci siamo recati come osservatori per fondamentalmente varie ragioni. Uno è sicuramente il supporto e la solidarietà internazionale, che è sempre bene esprimere, è sempre bene che si esprima. Infatti, andando lì, sicuramente noi siamo stati un supporto per l'HDP e per che è il partito che si è candidato alle elezioni, che sostiene la maggioranza del popolo curdo, ma anche per noi è stata un'ottima occasione per incontrare, diciamo, compagni solidali da tutta Europa e metterci in relazione con gli stessi compagni dell'HDP, certo. E in realtà anche la possibilità di respirare e di toccare con mano una situazione di cui chiacchieriamo e che parliamo, insomma, di cui parliamo da qui, da ormai anni e anni. Ma in questa delegazione quindi c'erano tante persone da tante parti del mondo, quindi c'eravate voi italiani, ma anche... Sì, ma anche tedeschi, moltissimi, poi dai paesi nordici c'erano alcuni compagni, poi una compagna dalla Colombia, diciamo, la componente italiana era maggioritaria. Il nostro scambio, a quanto pare, con il popolo curdo è uno degli scambi più grossi che loro hanno, infatti con l'Italia hanno un'ottima relazione, e sì, i compagni tedeschi penso che siano la seconda forza che è più grossa che era presente. Ma quindi lì. Tutti i compagni? C'è gli osservatori? No, c'è anche una componente... Allora, no, è vero, io parlo di compagni. Diciamo che la sicuramente era molto variegata, nel senso che erano presenti giornalisti, erano presenti legali, erano presenti anche esponenti di partiti che sono recati lì anche solo per connettere il proprio partito con l'HDP. Quindi sicuramente era una delegazione variegata, però anche questo io penso che sia una forza, certo. Perché ha dato punti di vista diversi, infatti tutto quello che noi possiamo vedere adesso sono resoconti molto differenti, di opinioni molto differenti riguardo sia a come sono svolte le elezioni, sia adesso alle considerazioni che vengono da fare dopo. Ah, certo, e poi anche quello che ci arriva qua a noi rispetto a quello che avete visto, se ci sono anche discordanze. Ma chiediamo subito, questo il partito, appunto, com'è la sigla? HDP. HDP, allora cos'è l'HDP per chi non lo sa? Ah, partiamo subito col pippone? Certo. Ok, siamo qua apposta. Va bene, allora, se vogliamo, diciamo che l'HDP è un partito, il partito... che si è formato appunto nella zona del Kurdistan, è il Partito Democratico dei Popoli, così è stato definito, e bisogna però appunto chiarire, nel momento in cui si va a parlare di andare a collaborare, portare solidarietà appunto a un partito nel Bakur, qual è il percorso e come questo si lega a quello che è il progetto confederalista in generale. Diciamo che il confederalismo, no, democratico ha un po' le sue basi con tutta la parte dell'evoluzione che c'è stata all'interno di quello che era un po' le posizioni anche del Partito dei Lavoratori Curdo, no? Il PKK, dopo il 93, quindi cambio di paradigma da parte anche, insomma, anche diciamo che viene spesso citato, okay. Però c'è stato un lungo processo, ovviamente stiamo parlando dal 93 ad oggi, che fa una prima parte, che è quella degli anni 90, e anche la parte successiva che ha proseguito, per esempio, già dopo l'arresto di Öcalan. Però sono stato per esempio uno degli elementi fondamentali è anche il contatto a livello epistolare, perché essendo Öcalan in isolamento non c'erano contatti diretti, però per esempio tra Öcalan e Murray Bookchin, no? E quindi tipo la commistione tra quello che era le posizioni politiche da cui era partito negli anni 70 il PKK, quella che era stata la loro evoluzione durante la lotta, anche nel confrontarsi in una maniera abbastanza, cioè, aperta, no? Con quello che era le risposte della società e quello che era il percorso che veniva creato, dall'altra parte appunto la sperimentazione in montagna di un modo di vivere diverso, perché comunque per quanto guerriglia sono 40 anni, no? Che questo viene portato avanti, quindi una serie anche di generazioni, no? Di combattenti, quello che era stato successivamente e le elaborazioni teoriche che sono venute fuori. Quindi in questo discorso del confederalismo abbiamo appunto la possibilità di andare a utilizzare tra le vari strumenti, no? Per inserirsi e cambiare, appunto, riuscire a generare auto-organizzazione, anche quello di sfruttare gli strumenti esistenti che, diciamo, sono il prodotto delle lotte anche nel passato, nel specifico. Quando si parla di Stato-Nazione, genericamente ci si semplifica molto come un oggetto monolitico, no? Mentre in realtà, se andiamo a vedere, è stato plasmato più che altro in risposta a quelle che sono state anche le istanze sociali, no? Per esempio, se andiamo a guardare quelli che sono i poteri locali, non sono una cosa che è stata, diciamo, che è arrivata gratuitamente, no? È stato un percorso abbastanza lungo per riuscire ad avere dei poteri locali sotto il fascismo o in qualsiasi stato dove vige una situazione, appunto, di accentramento del potere. Tipicamente, per esempio, è il governo a indicare dei sindaci che amministrino la città, no? Questo, insieme ad altre considerazioni, portano all'idea di utilizzare, appunto, le amministrazioni locali come strumento per dare al movimento maggiori spazi e maggiori possibilità di azione. E dunque la gestione a livello l'entrare all'interno dei poteri locali è un elemento fondamentale del progetto confederalista, quando si trovi davanti a una struttura statale ancora in piedi, diciamo, quello che è la situazione che c'è in Bakur rispetto a quello che si è verificato in Rojava, dove, dato il vuoto di potere, si è potuta creare direttamente, cioè mirare direttamente a costruire quello che era il modello senza dover avere una dialettica con la struttura di potere esistente. Questo è proprio interessante, quindi la grande differenza, seppur facente parte un po' della stessa idea, fra il Rojava, quindi ci stai raccontando, e invece il Bakur. Sì, il modello da raggiungere è lo stesso e quelle che si stanno sperimentando sono tante diverse strade per raggiungerlo, no? Questo è abbastanza importante da capire quando si parla di Kurdistan e di confederalismo. Ora, appunto, Kurdistan è già limitante già oggi, perché questo modello politico si è espanso oltre quello che è il discorso delle aree abitate a prevalenza curda. Quindi in realtà quello di cui si parla, appunto, è di un modello politico che ha come la democrazia radicale, definiscono loro, come principio di base, e che cerca di portare quello che sono tutte le varie dinamiche dell'attivismo all'interno della società, all'interno di coordinarle per generare di fatto auto-organizzazione. Appunto, poi si parla anche di confini, perché quando si parla di Rojava si parla della Siria, quando si parla invece del Bakur si sta parlando della Turchia. Diciamo, le aree a prevalenza curda, poi si parla anche entro i confini iracheni e iraniani, se non mi sbaglio. Sì, sì, sono questo modello, corretto. Diciamo che corretto, bravo. 10. No, 10 punti. Troppo 10, dai. Cioè, il modello confederalista, diciamo che affronta il discorso, appunto, cioè nasce anche questa riflessione proprio da una minoranza oppressa, non a caso, perché il tentativo di creare uno stato da parte del, cioè per quelle che erano le prime istanze, no, anche da parte del PKK, sono state rielaborate proprio a seguito, insomma, della riflessione per la quale creare un altro Stato non avrebbe portato maggiore libertà, no? Avrebbe perché generato è proprio lo Stato, ulteriori confini, esatto, ulteriori minoranze, quindi ulteriore oppressione. Quindi da qui la spinta a superare questo modello. Il modello confederalista non si incentra appunto su dei confini, su stabilire dei confini netti, quanto più su generare dei poteri locali che si vanno coordinando fra loro, quindi non necessitano propriamente di avere dei confini così chiari. L'obiettivo chiaramente a lungo termine era quello di avere una capacità di amministrazione, di autogestione locale e di confederazione oltre attraverso i confini, no? Senza andare a istigare quello che nello Stato provoca la reazione violenta, cioè il tentativo di separatismo, diciamo, in un certo senso, che è quello che è sempre cioè che è stato sempre utilizzato, no? In funzione anticurda, diciamo, in questo modo viene superato, perché quello che si chiede non è l'uscita dalla Siria o dalla Turchia, ma è una grande autonomia all'interno di questo Stato, a cui viene lasciata le questioni più che altro di alcune questioni centralizzate, o comunque una sorta di funzione di coordinamento fra le autonomie. In questo modo sarebbero poi le amministrazioni locali ad avere di fatto il controllo sui confini, essendo tutte gestite dai partiti e dalla società confederalista, diciamo. Ok, e quindi però perché allora la Turchia, cioè la Turchia, Erdogan ce l'ha così tanto e vuole andare a prenderselo? Beh, sicuramente intanto dalla nascita e dall'inizio della rivoluzione in Rojava, cioè quando c'è stato il grosso vuoto di potere, i curdi sono riusciti ad organizzarsi, ad organizzare la struttura che ad oggi possiamo apprezzare, come appunto le zone liberate del Rojava, che adesso appunto si estende oltre anche il Rojava stesso, con insomma l'ultima, diciamo, pulizia sull'ISIS nella, certo, parte più vicina all'Iraq, nelle zone più vicine all'Iraq. Questo è stato un movimento che ha dato grandissima forza ai curdi in Turchia, chiaramente. Ecco, nel momento, di Kobane è un momento altissimo anche per lo stesso Bakur, è un momento in cui Erdogan si trova anche a cercare di appianare i dissidi interni e prova quasi a intraprendere un cammino di pace anche con il PKK. E sicuramente, diciamo che l'idea di avere una stretta da parte di un popolo che lui all'interno del suo Stato sta discriminando da anni e anni e anni, con degli alti e bassi che raggiungono bassi importanti in questi ultimi anni, avere una forza militare, non solo una forza a livello, diciamo, politico, ma militare, che schiaccia sui suoi confini sotto, è sicuramente una cosa problematica per lui. E dall'altro c'è sempre da pensare che Erdogan è un panarabista, cioè nel senso, con l'idea della ricostruzione dell'impero ottomano quasi, quindi le mire politiche sono sempre state anche sulla Siria, sulla stessa Siria, sì. Lui sperava, io penso sperasse, che con la guerra civile in Siria sarebbe stata la sua grande occasione. Infatti ha finanziato come ha potuto anche i movimenti appunto di insurrezione all'interno della Siria all'inizio della guerra, quindi con il Free Syrian Army e tutto quello che sono, certo, state poi le bande jihadiste che poi sono andate a comporre Daesh. Esatto. Sicuramente per lui creare squilibrio all'interno della Siria era un modo per avere, è la potenza, comunque è una delle più grosse potenze presenti sul territorio, la Turchia. Abbiamo quindi un quadro, direi, abbastanza netto. Dici Omlo, poi voglio aggiungere una cosa io. E bisogna, no, dicevo appunto, bisogna, perché è abbastanza importante vedere i meccanismi che ci sono anche all'interno di quelli che sono le cose che noi conosciamo, no? Per esempio i meccanismi elettorali, per quello appunto si cercava di chiarire, ecco, appunto questo ruolo. Perfetto. Perché neanche nel ruolo di Erdogan rispetto alla Siria, no? Anche chiedendo giù fino a un certo momento, no? Fino al 2014 erano passate anche alcune informazioni sui media, no? Perché nel 2013 Erdogan era stato il primo il primo politico turco a dichiarare l'esistenza dei curdi, no? Cosa che non esisteva e ovviamente era vietata, come ancora oggi è vietato per esempio parlare di genocidio armeno, no? E quindi in realtà in quel momento lui aveva toccato un picco anche di popolarità proprio grazie al percorso di pace che Öcalan e il PKK stavano cercando di portare avanti, diciamo dal 93 questo percorso era iniziato, negli anni appunto tra il 2013 e il 2015 è stato effettivamente implementato, portando effettivamente alla creazione di una situazione diversa per il Bakur e per la Turchia in generale. Questo però cosa ha portato? Che alle elezioni del 2015 l'HDP, che aveva avuto visibilità anche al di fuori, no? Non essendo così additato come terroristi eccetera eccetera, superasse appunto la barriera del 10% che c'è in Turchia per entrare in Parlamento, no? Mm-hmm. Con questa diciamo entrata in Parlamento che ha portato Erdogan a non avere più una maggioranza assoluta come aveva prima, e che quindi lo ha spinto a appunto rispetto ad allearsi con un partito come l'HDP, comunque laico e con una serie di posizioni ovviamente in contrasto con quelle che sono le politiche di Erdogan, a cercare invece appoggio nell'MHP, o quindi praticamente i fascisti neo-ottomani, no? Quindi di fatto questa violenza, tutto questo, diciamo appunto quello che è successo a partire dal 2015, il tentato golpe eccetera, ma soprattutto la guerra proprio in Bakur, perché si è trattata di guerra contro la popolazione civile, e di entrata militare in Rojava eccetera, si tratta di politiche di consenso, come diciamo noi possiamo vedere un Salvini che dichiara guerra, no, alle navi, ai migranti, a chiunque, no, sia, possa essere una minoranza su cui accanirsi, diciamo che quello è stato l'equivalente atto di Erdogan, puramente a fini politici. Fino a pochi anni prima questo poteva essere lo vedeva come fonte di possibile consenso, nel momento in cui ha verificato che questo non aumentava il suo consenso ha portato il paese alla guerra. Allora, assolutamente, e quello che voglio aggiungere è tanto grazie, questo è veramente un quadro generale storico geografico molto importante, molto spesso stando ai telegiornali abbiamo dei notizie spot e poi non ci rendiamo conto, non uniamo tutti i puntini. Infatti ti dico, magari potremmo, non qui perché non abbiamo tempo e vogliamo sapere quello che avete vissuto, però potrebbe essere interessante appunto anche parlare di Erdogan nei Balcani, appunto perché io ne parlai tempo fa all'Ora dei Balcani delle sue visite che ha fatto proprio all'interno di questo piano di restaurazione dell'impero ottomano, che poi in realtà ha una visione abbastanza distorta di quello che era l'impero ottomano. L'altra cosa che volevo dire è che è interessante perché ha parlato si parla di confederazione, non di federazione, perché non so se tutti sanno la differenza fra queste due entità. Perché una federazione, come lo è per esempio gli Stati Uniti d'America, vuol dire che c'è un sistema centrale che controlla una serie di stati. La confederazione sono una serie di stati invece che decidono tutti insieme come agire. È una differenza molto grande. Perché è proprio un'attitudine diversa. Sì, è grassroot, no? Il famoso appunto il potere che parte dal basso andando verso l'alto rispetto al contrario. Eh sì, io fra l'altro volevo anche aggiungere una cosa, perché uno spunto di riflessione. Abbiamo parlato appunto fondamentalmente dell'abbattimento del concetto di Stato-Nazione, quantomeno in Rojava. Io mi chiedo, ma che senso ha parlarne in Europa, perché è una realtà piuttosto lontana dalla nostra realtà quotidiana, nonostante che si trovino studi, si trovino teorie che vedono lo Stato-Nazione in grossissima difficoltà anche nell'Europa, anche negli Stati occidentali. Perché? Perché non riesce più a assicurare quel welfare che un tempo era tipico, no? Era proprio la caratteristica, e poi quotidianamente si riversava sulle popolazioni. Quindi perché? Sì, io su questo ti cito subito una cosa che fortuitamente avevo aperto, che è proprio una citazione del congresso dei popoli, appunto, che parla appunto di democrazia, no? Questo termine che, diciamo, noi siamo abituati a aver visto completamente, diciamo, perdere rispetto a quello che possono essere i nostri ideali, no? Quello che sono i riferimenti, e trasformarsi, diciamo, avere una necessità di una decostruzione totale rispetto a quello che è il nostro concetto attuale di democrazia. Qui loro semplicemente molto semplicemente dicono che il modello di governo, no? Che dovrebbe essere dominante nel giorno di oggi è senza dubbio la democrazia. Dice: nessun governo che centralizza l'amministrazione di ogni strada, di ogni quartiere, di ogni città può essere legittimo, perché la democrazia richiede autonomia delle unità locali. Questa è la parte appunto centrale del discorso anche confederalista, e dove questo discorso si interseca con quelli che sono anche i percorsi per quanto riguarda anche l'Europa o gli altri paesi, nel senso che va proprio ad analizzare quali sono i meccanismi attraverso cui la democrazia, che viene tanto diciamo millantata e portata a spasso a suon di bombe, quali sono effettivamente quei meccanismi per cui non si realizza, no? Perché noi abbiamo governi rappresentativi, ma abbiamo un evidente problema di democrazia, se lo andiamo poi con tutto il dibattito che si può avere sul termine. Quindi di fatto è un movimento che è estremamente interessante, proprio perché in varie modalità, a seconda delle regioni e dei vari momenti storici, affronta quello che è l'implementazione di una democrazia radicale, no? E quindi dell'azione diretta da parte della società civile in quello che è l'organizzazione sociale. Perfetto, ottima risposta. Abbiamo il regista che ci vuole mandare un pezzo per... Ho fatto partire anche il sottofondo figo, cioè me lo mandi così, va bene, mandiamo... Allora, mandi messaggi contrastanti. Prima... Sì, cioè abbiamo il regista che si lamenta di base. Con cosa ci sollazzi? Senti, io mi metto sul Kinez, perché a me garbano sempre. Allora, tra poco di nuovo con Sina e Olmo. E Omlo, scusate. Poi tra un po' si fa il pezzettino. Road to Nowhere, Talking Heads. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. E sui suoni di Tom Waits, ritorniamo in regia con Xina e Omlo. Allora, siamo qui, stavamo parlando appunto della... partendo dalle elezioni che ci sono state poco fa in Turchia, stavamo un po' ragionando di come è nato un po' il partito curdo, attraverso quali meccanismi, diciamo, sociali, no? Detto bene, e a un po' quali sono gli obiettivi. Però volevi aggiungere qualcosa, in particolar modo sull'autonomia e il... Sì, visto che è un tema anche di attualità, no? È un tema che... diciamo è di attualità da tanti anni, ma è stato tendenzialmente a livello mainstream egemonizzato dalla destra, no? Se pensiamo agli ultimi 30 anni, vediamo la Lega di fatto arrivare al potere centrale fino a prima di queste elezioni, portando avanti discorsi legati a una maggiore autonomia locale, no? E questa cosa è sempre stata legata a un discorso di privilegi, no? Più di appunto denaro da non da mantenere al nord, eccetera, no? È stata egemonizzata in questo senso rispetto a quello che può essere invece un discorso legato all'aspetto democratico e quindi a una possibile reale possibilità di decisione da parte delle persone rispetto alla loro stessa vita, no? Quindi quello di cui, giusto per chiarire anche appunto qual è stato il percorso, no, con cui si è arrivati a mettere in piedi questa storia del partito, eccetera, è una cosa che inizia diversi anni fa e non inizia con la creazione di un partito che guida appunto le masse, no, secondo un modello, diciamo, un po' più classico, ma attraverso quello che è un processo che è partito prima da tutte le parti del Kurdistan. No, nel 2005 è stato istituito appunto il KCK, che sarebbe l'Unione delle Comunità Curde, che sarebbe un'organizzazione, un ombrello che copre appunto tutte le varie parti del Kurdistan, a cui partecipavano diverse, tutte le realtà, diciamo, affini a questa idea. Questa organizzazione è andata poi a creare nelle varie parti del Kurdistan dei congressi, no? Delle forme di organizzazione da parte del per esempio appunto in Turchia nel 2007, quindi dove si è fermato il congresso della società democratiche, che di fatto è uno strumento di organizzazione da parte delle assemblee locali, si riunisce ogni 3 mesi e che vuole appunto dare rappresentazione a vari aspetti, cioè sia le comunità locali, sia i differenti gruppi etnici, i diversi partiti, le discorsi di vari aspetti, affrontando appunto, cercando di relazionare quelle che erano le varie lotte, le varie forme di auto-organizzazione, dandogli una forma di coordinamento. Da questa cosa è nato appunto il congresso dei popoli democratici, che come vedete appunto ha tolto la parola Kurdistan dal nome, proprio perché appunto andava a comprendere anche tutta quella parte di popolazioni afferenti a diverse etnie, no? Visto che è altre minoranze. Esatto, la Mesopotamia è un mosaico di culture diverse, con ovviamente, come ci si può immaginare, si va appunto dalle eredità dei zoroastriane, no? Fino appunto... quindi appunto già nel 2011, quando viene fatto questo congresso dei popoli democratici, lo scopo era anche quello di rappresentare da una parte appunto armenie, alawiti, assiri, no? E tutti quei circassiani, tutte quelle varie comunità che vivevano su questi territori, come anche tutte le questioni legate alle questioni di genere, quindi LGBT, le questioni legate ai giovani, quindi dando una rappresentazione, cioè dando una rappresentanza e un coordinamento che dipendeva sia dalla disposizione dell'organizzazione territoriale sia dall'appartenenza a vari tipi di minoranze. È stato da questo, questo è diciamo l'equivalente in Rojava del PJD, cioè anche appunto Rojava aveva questo, questa, questa forma di coordinamento che poi dopo appunto a partire dal 2012 ha potuto, ha fornito da base per poi strutturare quello che è la Confederazione della Siria del Nord-Est. E invece in Turchia nel 2012 appunto è stato istituito l'HDP, quindi il Partito Democratico dei Popoli, che si è andato appunto a presentare alle elezioni portando avanti questa idea, quindi con una richiesta di autonomia che non è soltanto riguardante le regioni del Kurdistan, ma che riguarda tutti i distretti della Turchia. E quindi si è presentato normalmente anche fuori da quelli che sono le zone le aree a prevalenza curda, a differenza di questa tornata elettorale dove c'è stata una forma di organizzazione diversa, per cui si è andati a appoggiare quella che era la coalizione del CHP in maniera in un'ottica tattica, per cui insomma l'obiettivo era quello di togliere le municipalità a Erdogan e però raccreare anche all'interno di quelli che sono stati poi i vincitori, no? Quindi il partito kemalista, un rapporto di forza diverso, per cui appunto troviamo dei repubblicani, quindi tendenzialmente nazionalisti, che però hanno vinto a Istanbul, hanno vinto in varie città anche e soprattutto grazie al voto dei curdi e dei confederalisti in generale, e quindi ne dovranno rispondere. Questo è un po' per diciamo dare un po' l'idea di quello che è stato il percorso, quindi non un percorso che parte dalla creazione di un partito, ma quella che parte dall'organizzazione di un movimento che va ad agire direttamente sul territorio appunto in auto-organizzazione e che poi va a presentare appunto un partito solo al fine di entrare, cioè in parallelamente a quella che è l'organizzazione interna, di entrare all'interno delle istituzioni e di portare lì queste istanze, quindi entrando magari in un consiglio locale, come noi possiamo pensare, va a portare quelle che sono, cioè immaginiamoci, facendo un parallelo, che uno va dalle elezioni amministrative di maggio, no, a Firenze, organizzandosi in modo per cui nel consiglio comunale sarà necessario avere la rappresentanza di non una di meno, che potrebbe essere il parallelo di quello che è il movimento delle donne libere, cioè per fare esempi, no? Nel senso, prendendo quelli che sono i movimenti reali e sociali che ci sono e portandoli all'interno di quelli che sono di fatto le stanze dei bottoni, no? Certo. del potere politico. Quindi arriviamo a proprio l'esperienza che avete vissuto voi a questo punto, cioè all'interno della storia che noi ci stiamo facendo riguardo appunto a tutta questa vicenda. E quindi arriviamo proprio all'esperienza che avete vissuto voi e anche il motivo per cui siete andati lì, no? Sì. No, scusami, è che stavo ragionando su quello di cui parlava Omlo prima. Sì, perché nella nostra esperienza diciamo che noi abbiamo potuto anche apprezzare, ora, al di là di far parte di una delegazione, io e lui poi siamo stati mandati appunto nella città di Sirte per seguire le elezioni da vicino, e anche lì, quando uno entra alla sede centrale del partito dell'HDP, quello che si trova davanti, ecco, è tutto fuorché quello che ci aspettiamo noi quando andiamo alla sede di un partito. Ecco, io non ci sono mai andata alla sede di un partito in Italia, in realtà, però abbiamo questa strutturazione appunto in cui davvero tutti fanno tutto. Il nostro autista era uno degli eletti consiglieri comunali all'interno, okay, del distretto di Sirte, che quando è stato eletto ha passato 2 ore e mezza in macchina con noi per riaccompagnarci ad Ahmed, per esempio, e quindi insomma diciamo che c'è proprio questo contrasto, come c'è in Rojava del resto, del quello che è un qualunque tipo di autorità e di potere sugli altri. Ecco, chi poi va a ricoprire un certo tipo di cariche ha solo una responsabilità maggiore e rappresenta e si trova poi a rappresentare la volontà del resto della popolazione. E questo è anche l'elemento di forza per cui questo movimento non può essere decapitato. Cioè, basicamente, la grossa differenza che si percepisce proprio a livello umano, no? Nello stare lì è proprio tra l'individualismo a cui noi siamo abituati e quello che è un progetto collettivo e un sentire collettivo. Per cui in realtà gli eletti che sanno, cioè i predecessori, i sindaci che hanno preceduto, sono stati al 90% arrestati e spodestati, diciamo, da quello che era il ruolo assegnatogli, no? Per cui, cioè, chi si va a candidare non si candida per un tornaconto, diciamo, personale, ma anzi sa benissimo di esporsi a un rischio maggiore, e comunque la risposta è appunto: io porterò avanti la lotta, se verrò arrestato ci sarà qualcun altro che la porterà avanti. Allora, abbiamo un contributo che è sempre in tema Kurdistan, sul quale poi, tra l'altro, vorrei farvi una domanda, però intanto ci ascoltiamo il contributo dalla regia, proprio davvero dalla regia, nel senso che è tutta roba uscita dalla sua testa. Eccoci qua. Questa è una canzone scritta durante queste notti, delle ultime settimane. È una canzone che è dedicata a Orso. E niente, spero vi piaccia, ve la faccio. Nel frattempo stoppo il sottofondo. Sì, dai, sennò diventa un casino. Chiudi tutto. Buono. Merda, merda, merda. Cade, scava un solco nella testa che attraversa cuore e pancia di ogni uomo suo fratello. Tutti i solchi per loro stessa natura aspettano solo semi e che arrivi un acquazzone. Alle scuole ce l'han detto da tempo che niente al mondo si distrugge e che niente si crea e che tutto si trasforma. Quindi tutto torna, cambia solo di forma. Anche il coraggio dei nostri personali eroi e volte kosher resterai una presenza fortissima. E volte kosher hai scavato un solco profondissimo. Orso, non riesco a stare fermo se penso a quell'inferno, se penso che ti ci tuffavi dentro. Orso, quello che c'hai scritto non mi fa stare zitto, sta sulla bocca ad ogni tuo compagno. Orso, tu sei rivoluzione, sei tutte le persone che lottano per chi vedono oppresso. E volte kosher, partigiano, lottatore. E volte kosher tu ammazzavi, ma solo per amore. Quella sera eri freddi, c'era proprio tanta gente. Quella sera eri freddi, la ricorderanno tutti gli uomini. Sono fatti di memoria. Tra idrogeno, carbonio, ossigeno, azoto ed emozioni. E adesso i solchi sono pieni di semi, i solchi sono pieni di semi, i solchi sono pieni di semi, i solchi sono pieni di semi. Orso, non riesco a stare fermo se penso a quell'inferno, se penso che ci andavi a capofitto. Orso, quello che ci hai scritto non mi fa stare zitto, sta sulla bocca ad ogni tuo compagno. Orso, tu sei rivoluzione, sei tutte le persone che lottano per chi vedono oppresso. E valte coscer, la tua è una storia ingiustissima. E valte coscer, le tue parole mi fan sentire minuscolo. E valte coscer, a Rojava hai donato il cuore. E valte coscer, sei una goccia di splendore. Se dici che sei morto col sorriso stampato sopra il viso, facciamo che mi fido. E valte coscer, tu sei una storia bellissima. Made in Fuoco alle Polveri. Tutto questo. No, non è vero. L'abbiamo già sentita. Non è la prima uscita. Bellissima, bellissima, bellissima. Complimenti. Si parlava di orso in Rojava? Scusami, mi hai un po' emozionato. Sì, se ne è parlato, ne abbiamo parlato. Ora, ovviamente c'è da tenere presente che qualunque tipo di connessione fra qualunque tipo di persona e il Rojava è considerato terrorismo. In ogni basta un'affermazione, basta un abbocco, basta due parole di solidarietà e nemmeno le carceri sono piene di persone che hanno parlato di pace, non di fazioni. Quindi a livello pubblico non se ne può parlare, ma la storia di Tekocher, insomma, del nostro orso, è arrivata anche giù, e gli stessi parlamentari, insomma, gli stessi compagni dell'HDP ci hanno tenuto anche che la loro solidarietà arrivasse tramite le nostre parole. E quel giorno in piazza, il 31, quando noi eravamo appunto impegnati con le elezioni e Firenze esplodeva nel corteo in solidarietà, che da quanto abbiamo potuto sentire da lontano, forse voi lo sapete anche meglio di noi, era pieno e pienissimo. Beh, c'è anche una diretta Wombat che con un podcast che insomma ho avuto la fortuna di il privilegio di seguire, se ve la volete sentire, insomma, è lì, volentieri, insomma, su Wombat.blog. Sì, nell'andare nelle montagne di Sirte, appunto, ci siamo trovati appunto a lungo con tutti quelli che passavano anche dal partito, no? dalla sede dell'HDP. E, c'era una serie di signori anziani che gravitavano all'intorno, con cui ovviamente noi non riuscivamo, cioè, comunicavamo a gesti e emozioni. E insomma, quando gli abbiamo detto che dovevamo fare questo messaggio audio e ci hanno chiesto perché, gli abbiamo detto appunto per il nostro compagno caduto, e insomma non parlavamo perché non avevamo, non so, non avevamo questioni linguistiche, però l'emozione da parte loro è stata molto chiara, no? E molto forte. Il morto è stato definito un morto nostro, lo è morto anche per la nostra libertà. Beh, per quella di tutti è un po'... Sì, anche quello che ha voluto lasciare è proprio questa impressione, questa idea, no? Che lui era lì per tutti, per tutto il mondo, per tutte le minoranze, per tutti gli oppressi. Un internazionalista che va a lottare dove ce n'è più bisogno, all'interno del mondo, ecco. È, sì, partigiano di tutti noi. Sì, ancora di più, io penso che appunto sicuramente il mondo è pieno di situazioni drammatiche dal punto di vista di oppressione, repressione, l'impedire di autodeterminazione dei popoli, basta pensare al Sud America, basta pensare all'Africa, sono tutte situazioni molto particolari. Ecco, io penso che una persona scelga di andare a combattere in Rojava, in particolar modo, di andare a portare il suo sostegno, la solidarietà, per quanto non armata la nostra, ad un popolo come quello curdo, o meglio ad un progetto come quello confederale, perché davvero è un progetto in cui crediamo anche noi, davvero, almeno per quanto mi riguarda, io penso che possa essere la strada non solo di lotta al fascismo attuale e l'Europa tutta insieme, l'Italia principe della categoria, però insomma, l'Europa tutta insieme sta dando una svolta enorme, per poi non parlare dell'America, in questo senso, in un senso fascista, verso una direzione fascista di Stato. E quello che insomma... Una normalizzazione del fascismo anche, scusate. Esatto, una... farlo, impastarlo sempre di più all'interno delle leggi promulgate dagli stati, di renderlo come sempre poi accade piano piano, sono passaggi che appunto la persona comune non si rende conto, perché i diritti vengono tagliati, i poteri vengono accentrati piano piano con riforme. Ora ultimamente in realtà è stato anche abbastanza, alcune insomma leggi, il decreto Salvini è una legge fascista, lo è e non ha nessuna tesa di nascondersi nell'esserlo. Ecco, io penso che sia fondamentale anche, ecco, far passare questo, il fatto che ecco, Orso non era in Rojava perché il popolo curdo è oppresso. Orso era in Rojava perché è andato a difendere un modello che a mio parere ci salverà tutti, forse. Sì, ed è proprio questo anche l'essenza del confederalismo, no? Appunto, all'interno è proprio un antidoto alle retoriche identitarie, di false identità, nel senso che l'identità è una cosa mutevole e non è contraria appunto alla convivenza, alla costruzione insieme, no? Di qualcosa di diverso, per cui... sta proprio lì il punto. Uno va a lottare perché va con i compagni che lottano, no? Non è la questione di sei italiano e quindi non dovresti andare a combattere in Rojava, oppure che quella sia una questione dei curdi perché bisogna tutelare i curdi nella loro... Quella è una lotta che comprende l'umanità nel suo insieme e quindi non fa alcuna distinzione su base né di nazionalismi a cui siamo stati abituati, né di identità etniche esistenti, non c'è alcun contrasto, e questo penso che tutto quello che è stato l'internazionalismo in generale l'abbia sempre dimostrato, ma in questo caso specifico c'è proprio un modello politico costruito attorno a questa idea. Assolutamente, e poi vediamo chiaramente, come diceva Axin, appunto poi che lo Stato, la forza dominante si oppone a questi cambiamenti. Quindi lo vediamo in Rojava, lo vediamo tuttora, ma l'abbiamo visto anche all'interno della Turchia stessa. All'interno di queste elezioni che voi avete visto, quindi, si percepiva anche lo Stato che cercava di fermare questa nuova idea, cioè nuova, poi non è neanche nuova, lottano da un po', come ci hai ben spiegato, Omlo. Però avete sentito quindi che ci fosse un'aria pesante all'interno di queste elezioni dal punto di vista, qui l'avete visto? Direi vista e tagliata con il coltello, ecco. Nel senso che è stata proprio fin dal nostro ingresso, poi in Turchia, come raccontavamo anche lo scorso lunedì, di controlli pesantissimi subiti anche noi stessi, noi che con forti del nostro passaporto europeo comunque siamo trovati a dover rispondere a delle domande incalzanti e anche con un certo modo proprio per intimorire l'avventore che non ti torna, l'avventore che non è venuto in Turchia a spendere i suoi soldi, certo, a Istanbul e andare a farsi un giro turistico lì. La situazione di Ahmed è una situazione particolarmente, io penso, emblematica in questo senso, perché è la capitale della zona, insomma la parte in cui l'HDP è sicuramente più forte, ed è la città che ha avuto una delle maggiori, insomma, devastazioni a seguito delle insurrezioni fra appunto il 2016 e anche il 2017. Una città militarizzata, noi non siamo abituati appunto a girare per le strade e vedere costantemente blindati, costantemente persone armate, anche lo stesso esercito, la presenza dell'esercito in città, che è una cosa, noi siamo abituati forse più alla polizia, perché l'esercito è una componente che noi troviamo in alcune zone specifiche della città, mentre lì ha effettivamente pieni poteri e controlla tutto. Ancor di più nel momento in cui appunto una città come Ahmed ha ancora in sé tutta una componente di guerriglieri che nel 2016-2017 ha combattuto contro quello stesso esercito. Dal vicolo, per esempio, in cui ci trovavamo la sera in cui abbiamo... Ecco, te lo volevo chiedere. Quando vi chiacchieravamo con voi, qualche giorno dopo, nello stesso posto, davanti a noi, noi siamo andati a bere un bicchiere di vino con un amico, e anche lì si chiedeva, no, i giovani, il bere, il divertirsi. Ora, loro rifiutano lo sballo rispetto a noi, cioè una cosa che non compone la loro vita, però in ogni caso è meglio se stai a casa tua, questa è più o meno stata la risposta. L'uscire la sera non è sicuro, soprattutto la notte è il regno dei militari, noi dormendo, cioè, gli spari continui che senti, sei lì che ti chiedi ma cosa mai staranno sparando. E siamo nel sud-est della Turchia, no? Sì, ecco, sì. Ribadiamo questa cosa. Sì, ecco, quella sera, l'ultima sera della nostra permanenza, camminiamo con questo amico lì per le strade di Ahmed, e ci viene incontro trafelato, correndo, un ragazzo, era veramente un ragazzo, avrà avuto 18-20 anni massimo, penso più piccolo di noi, e a seguire un dispiegamento enorme di forze di polizia pesantemente armate. Il ragazzo è scomparso, ho scambiato due parole con il ragazzo che era con noi ed è scomparso nei vicoli di Ahmed, seguito appunto da questa carica di poliziotti e di persone dell'esercito, a cui fra l'altro il nostro amico ha anche dato indicazioni con una nonchalance incredibile. Abbiamo fatto quattro passi ed è scoppiato a ridere guardandoci, ha detto ovviamente gli ho dato le indicazioni sbagliate su dove andare, certo. E lui ci ha proprio detto non lo prenderanno, perché... Per ogni guerrigliero c'è una porta aperta ad Ahmed, un vicolo in cui si può nascondere. La solidarietà comunque della città è fortissima nei confronti di chiunque subisca la repressione, perché chiunque subisce la repressione, quindi sono tutti fratelli in questo. E, nel giorno delle elezioni, ecco, da una parte abbiamo potuto vedere, noi appunto eravamo a Sirte, questa città particolare, un posto comunque che vede racchiuse in sé varie minoranze e maggioranze, quindi è una zona in cui è forte la componente araba, soprattutto in alcuni quartieri, e proprio in quelli noi abbiamo potuto vedere una militarizzazione veramente veramente forte intorno ai seggi. questo chiaramente è da una parte sicuramente per evitare gli sguardi indiscreti anche i nostri, anche lo sguardo indiscreto dell'HDP che possa portare appunto a riscontrare un certo tipo di irregolarità, come per esempio il fatto che all'interno di quel seggio in particolar modo, votassero tutti questi militari che sono stati spostati. Sì, ho visto le foto. Sì, noi abbiamo appunto, arrivando a Sirte, abbiamo superato questa colonna di pullman in circa mezz'ora, ci è voluta per superarla, quindi parliamo di decine e decine e decine di pullman cariche di militari che venivano stanziati in questi seggi più periferici, dove l'HPP cercava fondamentalmente di bilanciare i voti di solidarietà per i curdi, e siccome un militare vota nel seggio dove è stanziato, tutta questa gente è stata presa appunto alla zona dell'Anatolia centrale, zone insomma di grande fedeltà all'HPP, se non e se non all'MHP addirittura, esatto. Ci sono zone di quella parte là che, in cui il partito fascista ha vinto, quello dichiaratamente fascista. E, diciamo che qui sono, quelli erano seggi, per esempio, particolarmente controllati, in cui alla prima scaramuccia, che poi ora scaramuccia mi viene da dire, però in realtà grandissimo affronto nei confronti del, dei compagni del parlamentare dell'HDP, quindi parliamo di un pubblico ufficiale ancora riconosciuto per quelli che sono i ruoli statali, viene bloccato dalla polizia, e questo è direi emblematico, no? un poliziotto che si impone su un pubblico ufficiale e lo addita anche a terrorista, quindi diciamo che è abbastanza, sì, io direi abbastanza emblematica come esperienza. Sì, assolutamente. Quindi cioè, principalmente diciamo noi non ci siamo trovati davanti a situazioni di violenza fisica diretta come è successo in altri seggi dove la polizia ha sparato, dove componenti dell'HPP hanno sparato, dove insomma ci sono state in vari momenti appunto interventi di violenza effettivamente fisica, però sicuramente c'è un livello di violenza psicologica estremamente forte, appunto, che è quello che uno può provare. Cioè noi adesso vediamo, no, la dinamica, appunto, non siamo abituati, adesso iniziamo a essere abituati ad avere i soldati nelle strade, no? Berlusconi ci ha iniziato ad abituare a questa cosa, no? È la direzione che sta prendendo un po' la situazione, tende verso quella situazione lì. Però appunto lì si tratta effettivamente di essere circondati, in altre Amush ci sono stati schierati in formazione i soldati armati davanti ai seggi, infatti l'HDP non è riuscita a vincere, ma con appunto ci sono i video, ci sono le testimonianze, e quello che di fatto la resistenza che si opponeva, noi appunto più che altro facevamo da osservatori, ma anche quello che è stata un po' per esempio in questa occasione la reazione, no, del deputato, dove si trovano quattro persone dell'HDP, no? Circondate già in partenza da decine di militari e soldati, nel momento in cui viene additato come terrorista, è stata quella di non abbassare per niente, cioè di non lasciarsi intimorire. Cioè, era una cosa abbastanza impressionante vedere una persona circondata di persone armate litigare con un'altra come se fossero come se non esistessero tutti quei fucili che aveva intorno, tanto più dopo che è stata chiamata le forze speciali, dopo che è entrata la polizia antisommossa, dopo che appunto ci sono state sono stati circondati da ulteriori decine più di forze armate. Diciamo era abbastanza chiaro quello che era il bilancio lì, non si andava per l'attenzione che c'era, per la nostra presenza, per la presenza di un deputato a esercitare come magari nei villaggi una violenza diretta, però il tentativo era quello di fare arretrare, diciamo, rispetto con lo schieramento di forze, e la loro resistenza ovviamente è quella di non cedere mai, insomma, rispetto a queste minacce. E infatti alla fine dei conti le grandi città le hanno prese in qualche modo. Le grandi città del Bakur, sì, sono state prese, i distretti del Bakur sono quasi tutti presi, anche lì nei risultati è facile il commento, perché per esempio è stata persa Shirnak, che è anche quella, il cuore, parliamo il cuore del Kurdistan veramente, però anche lì se uno va a vedere storicamente quello che è successo che nel momento in cui la Turchia voleva, Erdogan voleva il controllo, quelle sono tutte zone in cui i villaggi sono stati, insomma, dato villaggio per villaggio, è stata richiesta una fedeltà, ovvero anche la trasformazione della stessa popolazione in ranger, era vero, non mi ricordo la... com'è? Muftar. Esatto, altrimenti insomma la risposta negativa, i villaggi venivano completamente bruciati, la popolazione spostata, quindi sono zone in cui c'è stata una epurazione di curie, quindi di possibili sostenitori dell'HDP, quindi insomma diciamo che il risultato di Shirnak è appunto emblematico rispetto a come è andata la storia. E poi le grandi città della Turchia come Ankara, Istanbul, lo dicevamo anche prima. Sì. Ora, una cosa che volevo dare anche un po' come dato, perché penso anche che stiamo andando verso la conclusione, sì, è il fatto che Omlo prima parlava di questi uomini che non arretrano mai, nonostante appunto le minacce siano forti, ma siano reali, perché i loro compagni, i deputati sono tutti in galera in questo momento. Due giorni fa è stata aperta dalla procura turca una indagine per terrorismo sui nuovi cosindaci, sì, di Ahmed, per esempio, quindi non si è perso assolutamente tempo. E i due cosindaci sono già di nuovo sotto indagine, e ricordiamo che non servono prove per queste incarcerazioni, nel senso che appunto basta dare spazio ad una frase. La maggior parte degli accademici, come dicevo prima, sono in carcere per aver espresso appunto un parere rispetto alla pace, allo smettere la guerra, non per una fazione o per un'altra, quindi figurarsi quanto può essere facile trovare un minimo collegamento con il PKK, con il Rojava, e quindi quanto, ecco, la speranza adesso è che rispetto al 2015, dove appunto si ricordava 92 su 110 sindaci sono stati destituiti dai loro incarichi, adesso si spera che con la perdita un po' di potere di Erdogan, non a livello presidenziale, perché appunto si è fatto una serie di leggi per lui che campa 100 anni, certo, però a livello di partito, in realtà anche ci dicevano che anche la KP inizia a dividersi al suo interno, inizia ad avere a prendere due componenti. Ci sono i problemi economici, no? Anche poi che... esatto, noi siamo arrivati che la lira turca era al crollo totale dal punto di vista economico, c'è cioè una crisi economica, la gente inizia a non avere più da mangiare e ha voglia a controllarla anche con la propaganda della guerra, perché è sempre stato un suo modo, esatto, no, di spostare l'attenzione. Infatti ora si teme un po' una nuova no, diciamo, avanzata verso la Siria per motivi propagandistici. Certo. E va detto, se non sbaglio, che fino ad ora si è votato quasi ogni anno in Turchia. Esatto, c'è stata una sequenza, ecco, di elezioni interminabile fino al momento in cui Erdogan aveva consenso, mentre, esatto, il giorno dopo le elezioni lui si è affrettato a dichiarare che non ci saranno altre elezioni prima del 2023. Proprio appunto perché lui è stato eletto, cioè l'importanza di queste elezioni era legata anche al fatto che proprio l'estate scorsa è stato votato appunto come presidente secondo le nuove leggi, no? Sì. Per cui questa era la prima votazione dopo quella della sua elezione a presidente, e diciamo che questa, appunto, per questo assumeva anche un ruolo così fondamentale, anche perché appunto diciamo abbiamo un'inflazione al 20%, cioè abbiamo un quinto della popolazione giovanile disoccupata, e una crescita dei prezzi del cibo, dei beni alimentari del 30%, e un collasso appunto finanziario da parte della Turchia, anche in relazione a quelle che sono appunto sia le politiche interne sia le politiche, la geopolitica che porta avanti Erdogan. Quindi abbiamo visto nei mesi scorsi anche proprio componenti dell'HPP passare al CHP, appunto, quindi in vista di queste elezioni. Quindi insomma è una situazione abbastanza... Ci sono già anche appunto dei sintomi, dei messaggi che anche la popolazione ha dato con queste elezioni. Vi ringraziamo assolutamente per questa spiegazione totalizzante, comunque veramente, di tutto di tutto quello che sta succedendo e del quadro della situazione turca. Quindi vi ringraziamo sia per lunedì scorso che per oggi e in generale per l'esperienza che avete fatto anche a nome nostro, tutto sommato, come osservatori. Sì, ma non speriate che finisca, che finisca qui, non perché noi torneremo con molte Troviamo fuoco alle polveri. Noi speriamo un'altra cosa, che voi facciate proprio una trasmissione. Cioè, quindi sì, voi sì. Non sperate che finisca bravo, qua. Bravo, perché, bravo. Ma anticipate, lo sai, ci pensavo prima a casa, diciamo, lanciamogliela in diretta, no? Ma ce la fate una trasmissione Radio Wombat Kurdistan? No. Lo annunciamo qui, a brevissimo, una nuova trasmissione su Sina Radio Wombat, gestita, portata avanti da Xina e Omlo, a brevissimo, 13.59, wombat.blogs.org. Mercoledì, se l'ha detto, in replica il giorno alle 4. Va bene, no, vi ringraziamo, ci sarà sempre spazio per voi e se poi ne vorrete di più, il Wombat accoglie sempre tutti, no? Dio buono. BG Wombat. Allora, nel frattempo manderei un pezzettino per stemperare, per riorganizzarci. Passiamo alla parte un po' più culturale, un po' più ricreativa. No, culturale era anche la prima. Un po' direi. Dio buono. Ricreativa, no? No, insomma, anche qui siamo. Cosa ci proponi, chef? Vi propongo una canzone pesissima, così, dei Blue Vertigo del 2002. Sperando, lì si parlava di decade di decadenza, invece siamo a circa 20 anni di decadenza da quando è stata scritta questa canzone. Speriamo di non avere avanti un'altra decade di decadenza. Lustro di decadenza. Eccola. Frequentati, le strade senza uscita, le discese rapidissime, le imprese senza fine. Mi piacciono i lampi nelle notti scure, la paura del soprannaturale, partire alla ricerca di un tesoro che forse non esiste. Amo la glacialità della musica tonale e il modo in cui non è capita, forse neppure da me. Che bello quando nei film vedi stravolti i valori della retorica hollywoodiana e i negozi come spento, vedi almeno 7 minuti della tua vita bruciati, bruciati, bruciati, bruciati, bruciati, bruciati, bruciati. È affascinante il modo in cui la televisione abbia bisogno di grandi miti, superuomini eccezionali, e come Bono Fox si presti ad assumere questo ruolo, ironicamente, senza sputtanarsi, diventando miliardario. Vorrei che invecchiassero gli specchi anziché io. Siamo ancora in una candela, siamo liberi di ragionare, di non farci condizionare, di trascendere e di estremizzare. Mi piace tutto ciò che sembra. Anche la musica è migliore se c'è. Anche l'amore non esiste senza. Godiamoci una decade di decadenza. Apprezziamo chi invecchia dignitosamente, consapevole della sua curva discendente. Velocissime comunicazioni, virtualissime clonazioni. Ridley Scott ha avuto grandi intuizioni. Troppi replicanti in televisione. Siamo ancora in una grande era. Siamo liberi di ragionare, di non farci condizionare, di trascendere e di estremizzare. Mi piace tutto ciò che sembra. Anche la musica è migliore se c'è. Anche l'amore non esiste senza. Godiamoci una decade di decadenza. godiamoci una decade di decadenza. Godiamoci una decade di decadenza. Godiamoci una decade di decadenza. Godiamoci una decade di decadenza. Decadenza. Decadenza. Decadenza. Decadenza. Decadenza. Decadenza. Ogni città qualche Dario ha, ma qua e là c'è serenità, ma non con Nardella. Già. Purtroppo noi per appunto viviamo nella città di Nardella, cioè nella città nostra, ma che di Nardella guarda, non sono tanti ad avere un personaggio come lui, quindi ci dobbiamo ritenere fortunati. Abbiamo una fonte di ispirazione pressoché quotidiana, cioè. Infatti, niente, dal momento che siamo in campagna elettorale, ci sembra giusto la Nardellata riproporla praticamente tutte le settimane fino a che non ci sarà quel dannato voto. E cosa sta combinando Nardella ultimamente? Aveva avuto una settimana di niente sostanzialmente. Zitto. Stava sparendo un po', zitto. Soltanto su Instagram era un pochino più attivo, però poi insomma è ripartito alla carica. Allora, diciamo, il 3 aprile è stato rilasciato il primo ufficiale regalino elettorale. Dai. E quindi praticamente si dà una mancia di 50 euroni a quelli da 18 ai 25 anni per comprarsi libri, riviste, fumetti, quello che cazzo gli pare di culturale, dice. È buona questa cosa, no? Sì, buona, ho capito, però cioè è diverso dare il 50 ai giovincelli proprio pre-elezioni dall'investire davvero in maniera strutturale nella cultura. Dagli i musei gratis per sempre tra i 18 e i 25 anni, poi se ne riparla. Altro che cinquantone, che ci fai? Lasciamo perdere che ci offrirei. Io ci offrirei un sacco di fumetti. Ma io lasciamo perdere che ci offrirei un sacco di fumetti. E poi niente, attenzione, è stato riesumato un morto da poco. Indovinate un po', un morto col turbante. Cioni. No, un morto è Bin Laden. È neutro, può essere sia uomo che donna, sia maschio che femmina. E allora deve essere con turbante, con gli occhiali, il personaggio mistico. Ah, sì. Ha venduto una radio per la scorsa volta per tornare dai morti. Certo. Emma Bonino, Ale, più Europa per tutti, anche più Europa a Firenze, perché noi vogliamo l'Europa dentro Firenze, vero? No. Ok. Lo vogliamo, sì. Quindi niente, grande foto di bello de mamma con nonna Emma. E poi cosa abbiamo? Rilancio oggi, 3 ore fa per l'appunto, attività commerciali che vendono super alcolici, perché da che mondo è mondo l'alcol fa male, e fa male soprattutto se bevuto per le scale. Certo. Perché da che mondo è mondo, se lo bevi dentro a un pub non fa male. No, fa bene alle tasche. Fa bene alle tasche dei commercianti. Mentre sono tanti, danno tanti che voti. Sono tanti. Oh, ma stiamo facendo un monte di rime. Potremmo improvvisare momento rap su Nardella volendo. Oh yeah. No, facciamo no. E, insomma, questo bolle in pentola. La campagna elettorale è nel vivo adesso, è nel suo momento. Sì. Ma andrà a salire. Momento clou, mi raccomando, perché tutti quanti si impegnino a sputtanarlo in tutte le maniere, sempre a questo tipo qua, che veramente sì, ma anche gli altri, cioè non è che poi sì, anche gli altri ok, però noi ci sta sul culo lui principalmente. Sì, cioè è un po' il bersaglio più facile, quello sì, più è vista, il bersaglio più facile poi... No, poi per carità, cioè però vuoi mettere allora Cioni e Vatte lì, allora vabbè, sì, cioè, sì, lì, oppure lì ci sarebbe parlare da si potrebbe lanciare per la prossima puntata. Dobbiamo parlare di Bocci, che ora stanno uscendo tutti gli altarini, retroscena del passato, delle cose. Ma infatti per la prossima volta noi promettiamo una rubrica preelettorale sostanzialmente. Sì, probabilmente bisognerebbe farla. Vedremo. Vedremo. Vedremo, no? Si sputtana tutti e basta, cioè è l'unica cosa da fare. Oggi c'erano anche i Verdi che si sono presentati. Stamani a mezzogiorno. E che hanno detto? Andato. Non ne ho idea. Ah, ok, va buon. Era così, però per buttarli in mezzo. Ci sono i Verdi, sì, Labonino, sì, discorrendo, sì. Abbiamo visto la Bundo l'altro giorno allo Spazio Inchiostro, e dietro tutte le partite della sinistra, e sì, discorrendo. C'è un po' di tutto, via. Di tutti un po'. In questo sottobosco fiorentino, niente, vi lasciamo con un'altra, con un piccolo stacchetto malinconico. E dopodiché ce ne andiamo sulle ali della rubrica. Di Glanded Lago! Oh, no, di Vilgi. Di Vilgi and Lago. Sì, sulle ali io del sono cinema. Supporter. Supporter. Supporter. Supporter. Momento di tristezza collettivo. Io non. Sì. Ogni città. Ogni città. Dario. Quanto Dario ha. Ci manca anche di morti. Non sperare. Ma qua e là. No, no, qui, no, no, qui no. Che serenità. No, no, senza di te. Ma non con Nardella. E va di cinema. Dai, e tanta serenità invece ci porta qualcun altro. Oddio, non so, va, sono accesa? Sì, sì, sì, sì, accesa. Mi abbassate un goccio le cuffie perché... Te la abbassi da te. No. Cioè, primo canale. Io non ci arrivo. No, quell'altro è il primo canale. Va bene. Brava. No, scusa, la, scusa la scortesia. Non no, ma essere. Mi sento, cioè, tipo... Ti senti forte? No, ora non... No, c'è questo discorso che io sono sordo, quindi tengo tutto a sentire. No, no, dicevo il microfono. Secondo me non... Sì, bene, ok. Questo inizio vi dà la misura del disagio oggi. Veramente aiuto. Anzi, il disagio. Sì, sì, sì, oggi abbiate pazienza perché veramente sono confusa. Allora, c'è un sacco di roba, ragazzi, non so come fare, veramente devo essere velocissimissimissimissimo. Allora, direi, come al solito, Cinema Teatro La Compagnia, è finito il Festival del Middle East dell'altra settimana. Però c'è un sacco di roba bella anche questa, maledetti, il Cinema Teatro La Compagnia veramente, bah, vabbè, ci mettono alla dura prova, perché da domani, martedì, che non so che giorno è, ditelo voi, martedì 7 credo, no? No, martedì 9. Appunto, ve l'ho detto, oggi 7 no, era ieri, mi sa. Niente, no ragazzi. Ferma la domenica. Cioè, no, no, arrendetevi oggi. Maggio. Bene, allora martedì, ore 15, 17 e 19, un documentario inedito in Italia, e si chiama Quello che i social non dicono, e il titolo originale è The Cleaners. Per voi giovani usate i social. È un documentario sulla rimozione e la gestione dei dati, dai, diciamo, l'uso che i colossi Madonna. No, veramente. Che i mega colossi dei social come Facebook, Twitter, chi più ne ha più ne metta, dove vanno a finire i dati che ognuno di noi dà spontaneamente, ricordiamocelo. Certo. Quindi dai grossi scandali di Cambridge e via di questi ultimi due anni è stato fatto un documentario molto bello, dice, veramente valido, io ancora non l'ho visto, ma lo vedremo, ed è appunto inedito in Italia, quindi è la prima volta che viene dato, e c'è un po' tutta la settimana più o meno al Cinema Teatro La Compagnia, mi rimetto gli occhiali perché sono arrivata veramente a un punto in cui non vedo nulla, quindi consigliato, e se vi interessa domani è alle 15, alle 17 e alle 19 a ripetizione. Poi a seguire domani alle ore 21, insomma, una roba interessante soprattutto per quelli come me che quando studiavano cinema col cavolo ci facevano fare queste cose, perché c'è un ciclo si inaugura un ciclo da domani, gestito dagli universitari, cioè dagli studenti di cinema di Firenze alla Compagnia? Sì, al Teatro Cinema alla Compagnia. E fondamentalmente è un ciclo in cui è stato chiesto agli universitari di creare questo programma, una serie di film che andranno tutti i martedì da ora per un po', mi sembra per un in orari improponibili, tipo alle 2 e mezzo. Alle 21, in realtà questo è alle 21, è a seguire appunto del documentario. E il ciclo si intitola Dark Sentieri del Male, quindi non è una roba proprio originalissima, però io sono una patita di... film, cioè mi piacciono i film. In tutto horror? Ah, sì, horror e comunque thriller. E danno stasera, domani, dai, per la prima volta, un film che si chiama E ora parliamo di Kevin. È un thriller, pare molto interessante, io non l'ho visto, con mega cast, Tilda Swinton, John C. Reilly, la storia di questa famiglia con questo figlio problematico che poi... Ammazza tutto. Va in tragedia, sì, la buttano veramente in tragedia. E inaugura appunto questo ciclo, se vi interessa, tutti i martedì per un po', tanto ve lo ridirò. Bene, mercoledì per il ciclo, scusate il ritardo. No, il ciclo, non preoccupare. Dai, tre volte le facciamo, va bene. Sì, ve l'ho già fatto. Vabbè, tre volte si fa ormai. E, ridanno, come al solito, film che sono passati, ma che magari qualcuno di voi ha perso, tipo me. E ridanno La Favorita di Latimos, l'avevamo già presentato, bello, un film in costume, bello. Tutto cast femminile, ha vinto di tutto, se è vero, anche Coppa Volpi, credo lei, addirittura Oscar, insomma vabbè, alle ore 16, 18 e 21, quindi se l'avete perso scoprivatelo. Il giovedì a seguire, per rimanere in tema probabilmente con La Favorita, ma forse no, perché fa parte di un ciclo di cinema e psicanalisi. Vabbè, ora, La Favorita ci potrebbe stare. No, ma aspetta, perché non ho detto il titolo, ovviamente ho fatto il solito pastrocchio. A seguire questo film che si chiama The Lobster, che è il film precedente alla Favorita di Latimos. Un film super interessante, se qualcuno non l'ha visto. Loro l'hanno messo in questo ciclo di cinema e psicanalisi che, come sempre la compagnia, no, fanno le cose tematiche, quindi andrà avanti questo ciclo. Però in realtà, al di là insomma, se vi interessa più o meno il ciclo cinema e psicanalisi, in realtà il film è interessante perché è un futuro... distopaico. Distopaico, in cui il mio amatissimo Colin Farrell... con pancetta anche. Va bene, però gli vogliamo bene. Anzi, forse cioè, di più. Come amatissimo? Pancetta. È un problema, poi te lo spiegherò. Ha già detto tre volte. Ci ha detto c'è un problema. E tutti quanti siamo stati pronti ad accogliere questo problema la scorsa volta. Quindi non possiamo fare la paternale adesso. Grazie mille. In questo futuro distopico in cui se non si trova il partner entro una certa età si viene trasformati in animali. A propria scelta, però. È molto a propria scelta, si può scegliere. Bello, no? Buono! Tipo, te, Grippo, non trovi nessuno. Io voglio diventare un cignalotto. Esatto, pieno, scegli e diventi animale. Vorrei dire che sei già sulla buona strada. Però non vogliamo parlare. Dovevi vedermi qualche anno fa. Io avrei detto un gatto. E volevi diventare un gatto. Però vabbè. No, cinghiale gli sta bene. Merda. Un orso. Va bene. Comunque, ognuno scelga l'animale, poi ne riparliamo. Aspettate, bene. In maniera assolutamente fastidiosa, come succede all'interno della televisione, arriva uno spot pubblicitario. Avanti, attenzione! Avanti. Anche le foche bevono Radio Wombat. Esattamente. E via. Questa era le due foche diventate troppo single. Perché qualcuno di noi diventerà una piccola fochina. Io lo sono un po' già, quindi la collo. Va bene, a seguire direi, molto importante, io ci tengo molto a questo, perché alle ore 21 di giovedì, sempre a seguire appunto da programmazione del Teatro Cinema La Compagnia, c'è un film stranissimo, in realtà un documentario più che un film, in anteprima, si chiama Island of Angry Ghosts. Allora, ci vuole un attimo d'attenzione perché è complicato. Allora, il film è... va bene, faccio prima a dirvelo. Sull'isola di Natale, nell'Oceano Indiano, i granchi rossi di terra migrano a milioni dalla giungla fino al mare. La stessa giungla nasconde un centro di detenzione australiano. Attenzione. Dove siamo però? In India. Però il centro di detenzione australiano. È una storia vera, è un documentario, quindi non è fiction. Ad alta sicurezza, in cui migliaia di richiedenti asilo sono stati rinchiusi a tempo indefinito. Magari fosse una fiction, cioè è la verità. La loro unica connessione con il mondo esterno è la terapeuta del trauma, Pauline Lee, vabbè. Mentre il terapeuta del dramma e la sua famiglia esplorano il bellissimo paesaggio dell'isola, gli indigeni eseguono i loro rituali, gli indigeni autoctoni, eseguono questi rituali di fantasmi affamati per gli spiriti di coloro che sono morti senza una sepoltura. Fanno offerte per placare le anime perdute che, si dice, stiano vagando nella giungla di notte in cerca di casa. Quindi c'è granchi, immigrazione di granchi rossi, immigrazione, carcere massima sicurezza, io direi, riti. Io lo inserirei nella categoria che ci va ci vuole, però però di fatto magari, io credo, non lo so, io lo vorrei vedere, penso che sia interessante. Le premesse sono interessanti. Sì, se uno magari non perde il filo, ecco, bene, come me. Avanti, direi che questo, se vi interessa, alle ore 21 giovedì e in ripetizione anche venerdì in vari orari. Consultate sempre il sito Cinema Teatro La Compagnia, perché chiaramente lì c'è tutto spiegato molto meglio di come lo posso dire io. Sabato, in realtà una giornata per bambini, cioè, ma anche no, diciamo cinema per l'infanzia, e alle ore 11 di mattina un laboratorio di animazione a cura della Fenice, che è una casa di produzione italiana che lavora con l'animazione, col digitale, e la domenica uguale, a ripetere insomma questi programmi. Quindi, senza perdere nemmeno un secondo, andrei subito al cinema Spazio 1 in Via del Sole, che anche questa settimana ci presenta oggi lunedì 8 e mercoledì 10 in orari da consultare sul sito, The Mule di nuovo di Clint Eastwood. Ragazzi, The Mule se ancora non, cioè veramente, cioè, boh, ci escono 200 film Clint ogni Eastwood giovedì, ci dorme sul pianerottolo, cioè, finché non si vede non è contento. Va bene, quindi scoprivatelo, non abbiamo già parlato, non starei a ripetere. Lunedì 8 alle ore 18, alle ore 21:30 c'è questo film documentario italiano che si chiama Butterfly, ed è una storia della campionessa italiana di box femminile, di questa ragazza, che per chi fosse interessato all'argomento pare bello, pare fatto bene, io non l'ho visto, è la storia appunto del suo percorso, di come lei venga da questi quartieri molto poveri di Napoli, se non sbaglio, e abbia fatto tutto un percorso per arrivare all'eccellenza, e però diciamo trascorre lunghi mesi lontano da casa, sotto pressione, con enormi aspettative nei suoi confronti, quindi insomma c'è tutta questa battaglia sua anche interiore di rispondere a questa grande pressione, a queste grandi aspettative agonistiche in certo senso. Dice che è molto bello, e dice documentario, quindi chiaramente è lei, insomma è la storia di lei, lei sestesima. Bene, Butterfly. Il martedì al Cinema Spazio 1 prosegue il fantastico Festival del Cinema Spagnolo. Questo martedì è su Madrid, quindi film, produzioni madrileni. Tutte madrilene, per chi ama la città spagnola, a me piace molto. Allora, il primo è alle ore 17:40, alle ore 21:30, A cambio de nada, cioè nulla in cambio, in cambio di niente. È una storia di diciamo di una, anche qui di un'evoluzione, di un percorso di un ragazzo e del suo migliore amico, che nell'estate madrilena di qualche anno fa incontrano una serie di personaggi che cambieranno la loro vita e creeranno una sorta di famiglia, come si dice sempre, no? Alternativa alla famiglia tradizionale, e che fondamentalmente li cambia profondamente. Pare molto bello, ha vinto molti premi, come quasi tutti questi film in programmazione al Festival del Cinema Spagnolo di Spazio 1 sono scelti molto bene. Allora, alle ore 16, alle ore di 18:40, invece, quindi in orari alternati, sempre domani, il secondo film, che è, ragazzi, non sono spagnolo, qualcuno mi dovrebbe aiutare, però... Muchos hijos. Muchos hijos. Un uomo e un castillo. Un uomo e un castillo. Quindi, un uomo e un castillo. Molti figli, un uomo e un castello. Un uomo? Forse un uomo l'ho scritto io mentre traducevo. Un uomo è un ombre, io sì, però. Un ombre sarà. No, ma non sta problema, amica. Continua. Non passa nada. Bene, va bene. Quindi, documentario autobiografico, pare molto carino. Storia di una ricerca tra gli oggetti, diciamo, questo regista cerca. Cerca un oggetto tra l'eredità della sua bisnonna, tra questo appartamento pieno di roba in questa Madrid appunto dei nostri tempi, e tra tutti questi oggetti accumulati in tre generazioni lui sta cercando una cosa e tramite la ricerca ricostruisce la storia della sua famiglia, quindi una recherche du temps perdu. Bien sûr, grazie. E, una ricerca attraverso gli oggetti, premio Goya 2018, quindi insomma un importante, cavolo, importante. Bello, molto bello, quindi se vi interessa domani, martedì 9. Allora, a Rotta di Collo l'Odeon, Cinema Odeon, quindi il nostro amato cinema che ci dà tutte le versioni originali dei film. Ed è questa settimana, ripresenta dall'8 al 13 aprile, ripresenta Peter Lowe, il film che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato l'altra settimana. Che ho già visto, quindi... Grande, lui l'ha bello. Visto, ne hai già insomma. Parlato, giusto? Quindi, bello, insomma. Insomma, però si è piantato alla fine, mi pare. Sì, si pianta un po'. Versione originale, però ragazzi, si era anche detto di vederlo, se lo volevate vedere, in versione originale. Sì, sì, perché il doppiaggio fa assolutamente. Cacare. Poi i film inglesi si vedono assolutamente in versione originale, sono frustate. Ecco. Bene. Quindi Peter Lowe non starei a ribadire. Dall'8 al 13 un nuovo film, una grossa produzione americana, ma pare fatto bene. Si chiama The Aftermath. Non so se qualcuno ha letto questo romanzo che ha avuto grande successo negli scorsi anni. Adesso ci hanno tratto un film. Ho perso ovviamente l'appunto e mi ero fatta. Comunque, grande cast: Keira Knightley, Alex Asgard. È la storia di un ritorno nella Germania post-bellica di una famiglia inglese che si installa in questa bellissima villa no, di questo architetto tedesco che ovviamente è in miseria perché i nazisti, come tutti ben sapete, hanno perso la guerra. Sì, sì. Sì, la storia c'è così. Eh? E però inizia insomma, una serie di problematiche di convivenza difficile tra questa famiglia cioè quindi chiaramente è una metafora tra i vincitori e i vinti e cosa significa, no? Questo poi per la società, cosa significa, chi è poi, no? Effettivamente il no, come si comporta poi il ribaltamento dei ruoli tra vincitore e vinto in questo triangolo che si crea tra i personaggi principali, quindi tra l'inglese, la moglie, non so se è amoroso, forse è amoroso. Bello. Ci speravi perché di vedere un po' Keira Knightley. Un po' di un po' così, so. Atteggiamenti un po' secchina, però vabbè. Però, insomma, c'è il suo fascino, lo ammetto. Bene, direi che per chi fosse interessato è sicuramente un film da vedere anche questo in versione originale. Anche probabilmente per tutto la differenza linguistica tra gli accenti tedeschi e quelli inglesi, perché l'attore che fa l'ex nazista chiaramente è tedesco, credo, spero, quindi insomma c'è tutta una diatriba anche sul linguaggio probabilmente interessante che si perde nella versione doppiata. Ok, quindi The Aftermath, vi volevo dire titolo, cioè vi volevo dire regia un po' di più, ma ho perso l'appunto e vogliatemi bene ugualmente. Ma sì, ma certo, esiste lì. Oddio, tutto. È orribile da riascoltare quando uno va così veloce. Lo vai, so, vai, però vai. Siamo in ritardo. È come il coniglio di Bianconiglio, è tardi. Esatto. Tardi. Bene, ultima chicca, questa è veramente una chicca per gli amanti di questo autore. È il 10 aprile in evento, in anteprima europea, credo, forse a Parigi l'hanno già presentato, vincitore del premio César del 2019, è il nuovo film di animazione di Ocelot. Ocelot, per chi non lo sapesse, è il regista dei fantastici film di animazione francesi, Appuntamento a Belleville. Bello. Che è un film che chiama la musica, bellissimo. Non può assolutamente poi ha fatto L'Illusionista ultimamente, mi sembra. Ha fatto un video pazzesco, non so se l'avete mai visto, tutta una metafora tra Twitter e la Carmen, con la musica della Carmen sotto, che prendeva in giro l'uso di Twitter. Vai, una volta, no, questo è incredibile. Vabbè, comunque, sì, pazzesco, ve la faccio vedere una volta. Comunque, il nuovo film di animazione di Ocelot si chiama Di Lili a Parigi. E qui devo prendere la scheda, ragazzi, perché è veramente nuovo. E chiaramente, come tutti i film di quest'autore, è una favola gentile ma tagliente. Mercoledì 10 aprile, ore 21, Cinema Odeon e Franz Odeon presentano in anteprima nazionale il nuovo film di il grande maestro europeo, Michel Ocelot, di lì a Parigi, nella Parigi della Belle Époque, e a me mi hanno già convinto, io già ci vado. Il piccolo Canac di Lili, in compagnia di un ragazzo che fa le consegne un motorino, indaga sul misterioso rapimento di un gruppo di ragazze. Incontreranno uomini straordinari e donne che vogliono aiutarli. I due amici vivranno sulla loro pelle il senso di libertà e capiranno il significato della gioia di vivere. Della gioia di vivere. Beh, che gioia, ragazzi, da vedere, sì. Convinto, molto parigino, mercoledì 10 all'Odeon. No, mercoledì 10 all'Odeon. Alle 21 andare un po' prima, ragazzi, perché queste cose c'è sempre la coda. Sì. Coda. Bene, non ho più fiato, direi. E quindi? C'ho un'età e quindi il film della settimana. Il film della settimana a tema con la puntata. Tema, c'è stata molto tema. Brava, molto sono brava. Dai, ho fatto i compiti. Film documentario. Grazie, un film documentario che si chiama... Te non c'entri niente, però. A sorpresa. Sì, sì, intervenite, certo, liberi tutti. Allora, un film a sorpresa, un film documentario uscito in realtà qualche anno qualche anno fa, non vorrei sbagliare, non è proprio nuovissimo. Si chiama Girls War, ma in realtà La Guerre de Filles. De Filles. Ed è un documentario che parla delle donne curde che hanno imbracciato le armi, di fatto, mm-hmm. sono divenute parte integrante di della rivoluzione. Della rivoluzione curda. Di questa rivoluzione, di questa guerra. Mm-hmm. Ecco, sì, ho scelto questo film perché mi sembrava Che fra l'altro è molto interessante, io l'ho visto perché c'è su YouTube in versione integrale. Su in realtà è andato ora a questo festival del Middle East che abbiamo, abbiamo presentato la scorsa settimana. Però appunto potete guardarvelo, anche proiettarlo fra amici. C'è su YouTube, l'unica cosa è che è solo sottotitolato in francese. Sì. Però è molto bello, non dura neanche tanto, dura meno di un'ora. Vario, infatti. Insomma, appunto. Allora, è difficilissimo, ho trovato molto difficile fare una sinossi, perché chiaramente è un documentario, quindi è impossibile. Per la sinossi del documentario andatevi a sentire tutti Vi posso dire che i podcast su Rojava e quant'altro. Allora, diciamo che la storia parte, va un po' indietro, no? Fa un po' una panoramica su quello che è stato lo sviluppo della partecipazione delle donne. Delle donne appunto curde. Siamo nel Rojava, nel Kurdistan siriano, come dire. Allora, ora questo territorio è libero e riscattato grazie appunto anche a questo, a queste guerrigliere dello IP, l'unità di protezione, il braccio armato del Partito dell'Unità Democratica. E le donne curde sono le protagoniste di questa rivoluzione, la rivoluzione del Rojava, così come appunto questo documentario della Salua. Dimostra, tra i filmati di archivio, testimonianze, fotografie, in meno di un'ora questo lavoro offre un quadro chiaro di quasi tutte le unità armate femminili presenti nel Kurdistan attraverso una prospettiva storica del processo di emancipazione della donna. Perché se queste guerrigliere oggi imbracciano le armi e coordinano un sistema di difesa autonomo, lo devono alle pioniere che hanno aperto loro la strada. Quindi è interessante anche tutto il percorso, insomma, che fa vedere come loro sono arrivate a essere così presenti, così. Allora, sulle guerrigliere curde, sulle donne, ci sarebbe ovviamente da parlare per 6 anni e non si può fare adesso. Ne abbiamo parlato, ne avete appena tutta la punta. Sì, vabbè, però ci sarebbe ancora da dire. Certo. Però potresti fare una trasmissione su questa cosa. Lasciamo trasmissione oggi, dai. Un bombat d'argento, cioè le cose, non lo so. Cioè vado in overbooking, li trasmetto, mi odia già. Ci faccio troppe. Super occhio a dire che c'è da parlare troppo, perché questa sarà la risposta costante tutte le volte. Va bene, quindi ecco, vi invito a vedere questo documentario. Sì, vi mettiamo il link nel podcast, anche al documentario su YouTube, che potete guardarvelo comodamente sul divano, seduti sul vostro bel sedere. Sì, poi è un documentario, quindi in realtà appunto, che è chiaro, le cose sempre meglio vederle sullo schermo grande, però certo. Bene, e questo è tutto per oggi. Io volevo consigliare un altro filmino, però che c'è soltanto stasera alle 19 e mercoledì alle 19 sempre. Dove? Allo Stensen. E si intitola Daphne. Il film. Bravo. E, conosco bene il regista Federico Bondi. L'ho visto. E per giustizia volevo dirvi che sarebbe il caso di vederlo con la presentazione del regista, soltanto che ora non so se ne farà altre con la presentazione, poiché il film è bello, è un film che parla di questa ragazza con la sindrome di Down, e alla quale insomma succede una cosa molto forte all'inizio del film, ed è tutto quanto incentrato, diciamo, sulle caratteristiche di questa persona Down, che è una persona molto molto al di sopra delle righe, molto molto forte. E se c'è una cosa che volevo dire, e questa la si apprende se si conosce il regista o se te ne parla, uh-huh. è che è molto più realistico di quello che si pensi, nel senso è stata la prima stesura della sceneggiatura era meno calcata la figura di questa protagonista, ed è stata, diciamo, adattata sulla figura di Carolina Raspanti, che è poi l'interprete. Quindi è una storia bella questo film, in linea di massima. Ha vinto anche il premio della critica alla Berlinale, a Berlino. E più che altro la storia carina è che se non è un'attrice di professione, chiaro, la ragazza protagonista, e si è instaurato un rapporto di amicizia tra tutta la troupe e questa Carolina, bello, e tutti la vanno a trovare, quindi niente, è una storia di film felice, molto, diciamo. Va bene, ci ridici quando è? Stasera alle 19, mercoledì alle 19. Allo Stenzel. Via. Bene, e con questo, grazie, chiudiamo la puntata in fretta e furia perché ci stanno per strappare dalla regia. Esatto. Viva Wombat. Viva il Wombat. Ciao. E ricordatevi sempre tutte, lunedì prossimo, che Radio Wombat e Chingan. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente, con modestia, la migliore. A lunedì prossimo. Ciao belli. Dai, Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. This is Radio Bomb.